solo, io non ho amici, io non ho amori ma soltanto nemici. Io sono solo un viandante trappolato nella rete del sistema. Io sono solo un passeggero salito a bordo senza un biglietto vero. Io sono solo un burattino sta per scappare da questo teatrino. Sempre pronti a giudicare, questo è bene, questo è male.